nella gloria, la sfilata davanti al corpo del santo. Il santo era appena spirato e già la folla si stringeva intorno al suo povero cadavere. Don Vianney aveva più volte espresso il desiderio di non essere spugliato dopo morte, forse perché temeva che si scoprissero sul suo corpo le tracce delle torture che si era inflitte e che dovevano essere spaventose. Si pensò che fosse lecito non tener conto di tale proibizione e con ineffabile turbamento i missionari e i confratelli ebbero modo di contemplare quella reliquia degna di ogni venerazione, quelle membra santificate che offrivano l'immagine della estenuazione umana spinta fino al massimo grado. Verso le 5 del mattino la preziosa salma, vestita dell'abito talare, del rocchetto e della stola pastorale, fu collocata in una camera a pian terreno. La figura era calma e serena, come se fosse ancora vivo. Subito, davanti alle sante spoglie, cominciò una processione che fu ininterrotta per 48 ore. Per il servizio d'ordine, alle porte della canonica, il sindaco di Ars, conte di Garez, aveva dovuto chiamare gendarmi per trattenere la folla. Tutti volevano avvicinare il servo di Dio che riposava nel sonno della morte e rivedere i suoi venerati lineamenti di padre, di amico, di consolatore, di pastore. I visitatori venivano introdotti a piccoli gruppi e non potevano fermarsi oltre il tempo necessario per la recita di un Pater Noster e di un'Ave Maria. Due fratelli e due allievi del pensionato si prestarono a mettere in contatto con la preziosa reliquia gli oggetti di pietà portati dai fedeli. «Si sono vuotati tutti i magazzini di Ars», ha detto Martha Miard. «Nel mio magazzino alcune donne, senza fermarsi il tempo necessario per pagare, portavano via, pieno il grembiule, immagini, croci, medaglie, rosari». Il notaio Raffin di Trevaux aveva pure applicato i sigilli alla canonica, ma questo non servì ad evitare che ovunque si commettessero pie infrazioni alla legge. Alcuni pellegrini molto audaci riuscirono a procurarsi con poca fatica ricordi molto apprezzati. Giunsero fino al primo piano e tagliarono la porta della camera in modo tale che sarebbero riusciti ad entrare se non fossero sopraggiunti i custodi. Le tre piante di sambuco, che erano nel piccolo cortile, in breve tempo furono spogliate delle foglie che erano a portata di mano. Il corteo dei visitatori ebbe solo mezz'ora di sosta nel pomeriggio del 4 agosto. Quando il sole era più sfolgorante, si portò fuori il corpo sul suo letto d'onore ornato di foglie e di fiori. Così, per la prima volta, si poterono fissare in fotografia i lineamenti del curato d'Ars. Funerali trionfali. Le esequie erano state fissate per il sabato 6 agosto. La sera della vigilia ci fu nel villaggio una tale affluenza di pellegrini che vennero a mancare i viveri. La maggior parte non trovarono neppure alloggio e dovettero accontentarsi di passare la notte sulla piazza all'aperto. Verso le 8 ebbe inizio l'immenso corteo di 300 preti e religiosi con 6.000 fedeli. La bara non era ancora stata chiusa e si poteva quindi contemplare il corpo del santo. Quando uscì il feretro, racconta Don Alfredo Monnin, si vede ripetersi in mezzo alla folla quel movimento spontaneo ed irresistibile che si era sempre verificato all'apparire del santo tra i fedeli. Tutti volevano avvicinarsi alla bara per ammirare un'ultima volta la fisionomia del curato d'Ars. Infine il corteo poté mettersi in moto e San Giovanni Maria Battista Vianney percorse per l'ultima volta le strade della sua amata parrocchia. Non era un lutto, ma un trionfo. Dietro le bambine vestite in bianco ed i preti in abito da coro veniva la pesante bara di querce e di piombo portata successivamente dai preti, dai fratelli della Sacra Famiglia e dai giovani della parrocchia. Al suo passaggio le persone che facevano ala cadevano in ginocchio quasi a ricevere la benedizione suprema e frattanto lacrime pietose scendevano silenziosamente dagli occhi di tutti. Fra questa folla vi erano anche alcuni indifferenti ed uno di loro, racconta fratel Gerolamo, fu così colpito da tale spettacolo che gridò «Sì, era un santo!» e da quel momento la sua anima fu cambiata. Da lontano, ad intervalli, si udivano i rintocchi delle campane. Arrivato sulla piazza, il corteo funebre si fermò ed il corpo fu posto ai piedi del Calvario che si trovava nel mezzo. Là, Monsignor di Langalerie, che presiedeva ai funerali, pronunciò l'elogio del servo di Dio. Era il primo panegirico detto in suo onore e non v'è dubbio che sia stato il più commovente ed eloquente, una canonizzazione in anticipo. «Coraggio, servo buono e fedele», cominciò il vescovo, «entra nel gaudio del tuo Signore». E continuò, «ascoltate bene, fratelli miei, ascoltate in silenzio, o pii fedeli, venuti così numerosi a questa cerimonia imponente per un sentimento di rispetto e di dolore. Io ripeto la parola di nostro Signore nel Santo Vangelo. C'è in mezzo a voi forse qualcuno a cui non sembrerà di udirla dalla bocca di Dio stesso nel momento in cui l'anima bella del nostro santo curato si è staccata dal suo corpo, logorato per lunghi anni spesi al servizio del Divin Maestro? Meditiamola un istante, miei fratelli, questa parola così dolce e così cara, che in questo momento è per noi speranza e consolazione. Aggiungo che essa contiene anche un salutare avviso in nome di colui che non vi parlerà più se non attraverso gli esempi della sua vita e probabilmente anche attraverso i prodigi della sua tomba. Poi, a commento del testo da lui scelto, il vescovo di Belley rapidamente tratteggiò il profilo sovrumano del curato d'Ars, meraviglia della potenza e dell'amore di Dio. Da quanti anni, da quanti secoli forse, non si è visto un'esistenza sacerdotale in condizioni simili, continuamente, fruttuosamente e santamente spesa per il servizio di Dio? Non si sostituisce un curato d'Ars. Dio medesimo, nell'interesse della sua gloria, non vuole moltiplicare questi prodigi di grazia e di santità. La Francia intera ha perso un prete che era il suo onore e che fedeli di ogni paese e di ogni regione venivano a visitare e consultare. Orsù, servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Signore. La tua giornata è finita, hai lavorato abbastanza. Vieni, ecco la ricompensa ed il premio delle tue fatiche. Ed ora, odi bene, caro e venerato curato. Il giorno più bello e più ambito del mio episcopato sarà quello in cui la voce infallibile della Chiesa mi permetterà di salutarti solennemente e di cantare in tuo onore. Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium domini tui. Finito questo discorso, il feretro fu portato alla chiesa, aperta solo alle autorità, al clero e alla famiglia del defunto, mentre i gendarmi di Trevaux davanti alla porta con fatica riuscivano ad arrestare la folla. Con vera edificazione si notò che nessun strepito si levò da quella moltitudine immensa assiepata sulla piazzetta e pigiata in quella angusta via. Fu celebrata la messa da requiem dal canonico Guillemin, vicario generale di Belley, mentre un religioso silenzio dominava il villaggio in lutto, quasi trasformato in tempio. Al suono della campana la folla si inginocchiava e poi si alzava. Dopo le esequie, celebrate da Monsignor di Langalerie, il feretro fu deposto nella cappella di San Giovanni Battista davanti a quello stesso confessionale nel quale il servo di Dio aveva assolto e confortato tante povere anime. La cassa rimase ivi, custodita sempre notte e giorno da persone della parrocchia. Poi, il 14 agosto, il corpo fu calato nella tomba aperta in mezzo alla navata. Al di sopra fu posta una lastra di marmo nero sulla quale si vedevano incisi un calice e questa semplice iscrizione: «Qui giace Giovanni Maria Battista Vianney, curato d'Ars». I resti mortali del servo di Dio dovevano ivi riposare 45 anni, dal 1859 al 1904. Cominciavano frattanto a raggiungere domande di reliquie. Fin dal 4 agosto, Dardigli aveva avuto notizia telegrafica della morte di Don Vianney, ed il giorno dopo la superiore del pensionato della Madonna degli Angeli, fondato presso quella parrocchia dalle suore di San Giuseppe, aveva scritto al vescovo di Belley chiedendo il calice del santo. Pochi giorni dopo, Monsignor di Langalerie presentò al sindaco di Ars una petizione degli abitanti di Dardigli, sottoscritta dal cardinale arcivescovo di Lione. Il paese natale del curato d'Ars voleva per sé il cuore del santo se non gli si concedeva il corpo intero. Il conte di Garez oppose un reciso rifiuto. Il giorno del funerale, disse al vescovo di Belley, io avevo dichiarato agli abitanti di quella parrocchia che più tardi, quando sarà possibile l'esumazione del corpo, riceveranno una reliquia importante. Avrebbero dovuto accontentarsi di questa promessa e non insistere oltre con una domanda che nelle condizioni presenti è inopportuna e non sembra essere stata ispirata da devozione vera. Come vecchio amico di questo santo e come sindaco di Ars, io mi opporrò sempre ad una simile violazione del suo sepolcro e della sua volontà. Cominciava ora un nuovo pellegrinaggio. La voce del popolo, che qui era veramente la voce di Dio, aveva proclamato la santità del curato d'Ars. E tosto la folla accorrerà alla sua chiesa per venerarlo e pregarlo. La tomba era stata circondata da una ringhiera di ferro che presto fu sepolta sotto fiori e corone e servì di appoggio per le candele. I missionari, incaricati del servizio del tempio, pensarono di far scomparire subito questi segni di devozione e la barriera stessa. Vi era nel loro pensiero la preoccupazione di tenere lontano da questa tomba ogni segno di culto non autorizzato, tanto più che al vescovato di Belley si riteneva possibile la beatificazione e nessuno aveva il diritto di prevenire il giudizio ufficiale della Chiesa, pur rimanendo lecito a ciascuno di invocare il curato d'Ars privatamente. E difatti ogni giorno si videro pellegrini inginocchiarsi sulla lastra di marmo che ricopriva il sepolcro. Si vide anche il cardinale Villecourt, nella maestà della sua porpora e dei suoi capelli bianchi, inchinarsi fino a terra per baciare questa pietra venerata. Il processo di beatificazione. Incominciarono subito anche i lavori dell'autorità diocesana, che aveva il compito grave e dolce di constatare autenticamente la santità del curato d'Ars. Il 21 novembre 1862, tra la gioia immensa dei fedeli, Monsignor di Langalerie istituiva il tribunale ecclesiastico incaricato dell'inchiesta sulla vita, le virtù, i miracoli e gli scritti del servo di Dio. Era questo il processo dell'ordinario, che in 200 sedute raccolse le deposizioni di 66 testimoni e si chiuse il 6 marzo 1865. Per opera di Monsignor di Langalerie, appena qualche giorno più tardi, veniva portato a Roma e trasmesso alla Sacra Congregazione dei Riti in copia autentica il grosso volume di tale processo, 1074 pagine in folio. Nello stesso mese il pontefice nominava relatore della causa d'Ars il cardinale Villecourt, allora risidente a Roma, ed autorizzava il cardinale Patrizi, prefetto della Congregazione dei Riti, ad esaminare la relazione in francese e a farla tradurre in italiano. In pari tempo venivano nominati dei censori per esaminare gli scritti di Don Vianney. Dopo il processo dell'ordinario, che aveva lo scopo di raccogliere le prime informazioni perché la Santa Sede potesse decidere se si doveva o meno occuparsi della causa, seguì immediatamente il processo apostolico. Era regola che tra i due processi passasse un intervallo di 10 anni, ma con decreto del 6 febbraio 1866 Pio IX volle fare un'eccezione a questa regola. Il grande Pio Pontefice desiderava che la Chiesa glorificasse questo umile servo. Questa causa dovette però essere sospesa a cagione di molti avvenimenti che si succedettero: il Concilio Vaticano, la guerra del 1870 e l'occupazione di Roma da parte delle truppe del Piemonte. Finalmente, il 3 ottobre 1872, il medesimo Pontefice era felice di confermare la commissione che apriva l'era delle sessioni decisive. Con ciò stesso Giovanni Maria Battista Vianney era dichiarato venerabile. Le procedure apostoliche affidate successivamente ai Monsignore Girard, Marchal e Subiran, tutti i vescovi di Belley, durarono 12 anni, dal 3 agosto 1874 al 12 ottobre 1886. A questo processo comparvero 147 testimoni e le loro deposizioni, raccolte in 2.886 pagine in folio, occuparono 311 sedute. Il processo dell'ordinario ed il processo apostolico erano stati approvati dalla Congregazione dei Riti nella riunione del 13 maggio 1890 e questa sentenza veniva confermata il giorno seguente dal pontefice Leone XIII, che come Pio IX amava il curato d'Ars. «Bisogna sollecitare questa causa», diceva nel 1889 a Monsignor Lucon, allora vescovo di Belley e futuro cardinale di Reims. «Il curato d'Ars è la gloria religiosa della Francia». E dal prelato postulatore confermò: «Questa causa è la più bella e non deve essere ritardata. Vorrei beatificare io stesso il venerabile Vianney». Dio non gli lasciò questa consolazione, che fu invece riservata all'antico parroco di Salzano e di Tombolo, a Pio X, eletto papa il 4 agosto 1903, cioè nel 44esimo anniversario della morte del servo di Dio. Il 26 gennaio 1904 Pio X presiedette alla Congregazione Generale che doveva esaminare i miracoli del venerabile Vianney. Il Tribunale di Belley aveva raccolto 17 fatti di guarigioni avvenute dopo la morte del santo, ma l'avvocato della causa, Monsignor Morani, ne scelse due solamente che gli sembrarono sufficienti: la guarigione di Adelaide Joly e quella di Léoné Roussat. Sono due fatti così straordinari che vale la pena di raccontarli e ne sentiremo la narrazione dalla bocca di alcuni fra i testimoni più vicini. Ecco la deposizione resa da Léonilde Joly, sorella della miracolata, il 10 ottobre 1864. «Sono nata a Saint-Claude l'8 maggio 1848, 4 anni prima di mia sorella Adelaide. Da 5 anni ci trovavamo insieme nell'orfanotrofio diretto dalle figlie della carità nella parrocchia di San Giovanni a Lione. Una mattina, vestendo la mia sorellina, mi accorsi che si lamentava di dolori al braccio sinistro. Nel mese di settembre 1861, la maestra che sorvegliava i nostri lavori osservò che Adelaide teneva il braccio sulle ginocchia e non poteva lavorare. Le diede della fannullona, ma a sentir questa parola tutte e due cominciammo a piangere. Allora fu condotta dal signor Bern, medico primario dell'ospedale della Carità di Lione, il quale constatò che Adelaide aveva un tumore benigno per il quale sarebbe rimasta tutta la vita deformata, senza speranza di guarigione piena, e anzi avrebbe dovuto portare uno speciale apparecchio. L'apparecchio non fu ordinato perché le nostre insegnanti vollero tentare qualche altro rimedio e ci fecero cominciare una novena al curato d'Ars. Siccome erano venute in possesso di un paio di scarpe vecchie usate dal santo prete, ne presero una stringa e legarono con essa il braccio della mia sorellina. Al 7° giorno della novena, Adelaide mi disse: «Léonilde, il braccio non mi fa più male». Spinta da curiosità, scopersi il braccino e, constatando che poteva muoverlo con tutta facilità, corsi dalla maestra per dargli la lieta notizia. La maestra mi sgridò perché avevo agito senza il suo permesso. L'ultimo giorno della novena, la suora tolse completamente la benda al braccio, che era perfettamente guarito. Poteva muoverlo in tutte le direzioni e presentava la stessa forma di quello sano, senza alcuna traccia di imperfezioni o dimagrimento. Il tumore era affatto scomparso. Il dottor Bern, pieno di stupore, constatò la guarigione e non oppose alcuna difficoltà a rilasciare un certificato relativo a questa guarigione, certificato che fu poi spedito al vescovo di Belley. Noi, ben contente, abbiamo fatto una novena di ringraziamento e da allora invochiamo spesso il curato d'Ars che ha guarito la mia sorellina. Riguardo alla guarigione miracolosa del giovane Roussat, la riferiamo come l'ha narrata il padre fornaio a Saint-Laurent-le-Magon-Ain durante il processo di beatificazione. Dichiaro che in principio del gennaio 1862 mio figlio Léoné Roussat, di 6 anni e 2 mesi, soffrì di crisi nervose, prima leggere e poi sempre più gravi e frequenti. Ci rivolgemmo al dottor Carteron di Mâcon, che diede dei rimedi prima contro i vermi e in seguito contro la febbre, la tenia e l'epilessia, ma le prescrizioni del medico non ebbero alcun effetto. Vedendo che il male si aggravava tutti i giorni, mi recai con mia moglie a Lione per ottenere per il figlio una visita del dottor Barrière, medico primario dell'ospedale maggiore. Egli prescrisse l'uso delle acque ferruginose, rimedio nuovo da cui si attendeva un grande miglioramento. Il risultato fu che le crisi aumentarono di numero e di intensità in modo spaventoso, ripetendosi in media 15 volte al giorno. Ritornammo dal dottor Barrier, che in questa seconda visita si accontentò di darci alcuni consigli scritti, aggiungendo: «Vostro figlio è giovane, alcuni guariscono ed altri non guariscono, è inutile che abbiate a ricondurmelo». Poco soddisfatti riprendemmo la via di Bacon e, passando a Villefranche, molto vicino ad Ars, dissi a mia moglie: «Bisognerà condurre nostro figlio ad Ars». Giunti a casa, cominciammo una novena in onore del santo curato, ma non ne seguì un miglioramento. Non era ancora giunto il momento della grazia. Le crisi del nostro povero e disgraziato figliolo erano di una intensità e frequenza ancora maggiori. Qualche volta, dopo la crisi, rimaneva come morto, freddo e rigido per 2 ore, come colpito da paralisi, e perdeva completamente l'uso della parola. Il lunedì di Pasqua avevamo deciso di condurlo alla tomba del curato d'Ars, ma ne fummo sconsigliati dal parroco di Saint-Laurent, il quale temeva con ragione che nostro figlio morisse per viaggio. Finalmente, il 1° maggio, non poté più trattenerci. Egli stesso si recava ad Ars, ove il vescovo di Belley doveva benedire la prima pietra della nuova chiesa. Ci sorreggeva il pensiero che, qualora avessimo avuto la disgrazia di perdere il fanciullo, il nostro parroco si sarebbe trovato vicino per confortarci. Arrivammo ad Ars al termine della funzione ed avemmo la fortuna di ricevere la benedizione del vescovo per il nostro piccolo malato. Quando Monsignore passò alla casa dei missionari, il parroco e mia moglie gli presentarono Leone, che egli si degnò di abbracciare e di benedire ancora, incoraggiandoci a cominciare una novena al curato d'Ars con la recita di una 10ina del rosario ogni giorno. Egli stesso, con squisita cortesia, ci promise che avrebbe pregato per noi e ci assicurò della guarigione. Dalla casa dei missionari portammo il piccolo malato sulla tomba del santo e già al nostro ritorno all'albergo avemmo il piacere di notare che il fanciullo, completamente paralizzato, prendeva il bicchiere con la destra e beveva, e infine si divertiva coi fiammiferi che accendeva e gettava lontano da sé. Nel viaggio da Ars a Saint-Laurent, ove arrivammo molto tardi, nostro figlio non ebbe che 2 leggere crisi ed il suo sonno calmo durò fino al mattino. Per vestirlo fummo costretti ad usare le stesse precauzioni di ogni giorno, perché le sue membra erano sempre paralizzate. Mia moglie notò 2 altre crisi molto leggere. Ci mettemmo a tavola verso le 10 e quasi immediatamente Leone ci fece segno di allontanare la sedia, dopodiché balzò a terra e cominciò a correre perfettamente guarito. La sua parola era ancora impacciata, ma alla fine della novena, grazie a Dio e al suo servo il curato d'Ars, anche questa imperfezione scomparve. Da allora la sua salute è stata sempre eccellente, non ha più avuto un solo istante di malessere. Come testimonio di un simile prodigio, io non ho potuto rifiutare a Dio il mio cuore. Sono e spero di rimanere un fervente cristiano. Il 21 febbraio 1904, Pio X emanava un decreto con cui riconosceva l'autenticità ed il valore di questi 2 miracoli per la beatificazione del venerabile Giovanni Maria Battista Vianney, e il 17 aprile, domenica del Buon Pastore, con altro decreto dichiarava che con tutta sicurezza si poteva procedere alla solenne beatificazione. Si avverava il grido che un giorno le folle avevano ripetuto al passaggio del curato d'Ars: «È un santo!» E la sua santità sembrava evidente come la luce del sole. La Chiesa, sempre prudente e saggia nelle sue deliberazioni, aveva atteso 42 anni prima di dare il suo giudizio, e la sua sentenza era la conferma di quella data dal popolo cristiano. In quel giorno il mondo cattolico, e specialmente il cuore di tutti i sacerdoti, ha esultato di gioia. «Nulla», diceva Pio X il 2 febbraio ad alcuni membri del clero di Parigi, «poteva essere più gradito e accetto, non solo a noi, che per tanti anni abbiamo adempiuto di gran cuore il ministero parrocchiale, ma anche a tutti i parroci del mondo cattolico, come il vedere questo venerabile curato circondato dagli onori dei beati, soprattutto perché la sua gloria ricadrà su tutti coloro che si sono consacrati al ministero delle anime». Le feste della beatificazione Spuntò infine nel cielo di Roma l'aurora del gran giorno. Un sole raggiante illuminò il mattino della domenica 8 gennaio 1905, che era stata fissata per l'esaltazione dell'umile curato d'Ars. Monsignor Lucon, vescovo di Belley, che era stato incaricato di distribuire i biglietti di ingresso alla Basilica Vaticana, aveva ricevuto più di 30.000 domande. Sulla facciata della Basilica di San Pietro, una tela di bottoni e francesi rappresentava il curato d'Ars che dominava sulla città eterna. Nel vestibolo, sulla porta maggiore, un quadro di Capparoni ritraeva una delle scene del pellegrinaggio di Ars, il servo di Dio che passa tra la folla. Nell'interno della basilica tutto era parato a festa. Sul fregio e sulle colonne erano stati distesi paramenti di damasco rosso con frange d'oro. Nell'abside, ove doveva avvenire la beatificazione, erano stati collocati due stendardi. Il primo, a destra, rappresentava la guarigione di Adelaide Jolie, l'altro, a sinistra, rappresentava l'interno della chiesa d'Ars col piccolo leone Roussat disteso sulla tomba del Beato. Dall'altare della confessione alla cattedra di San Pietro brillavano migliaia di lampade elettriche, mentre nella immensa cupola sfavillava il bel sole di Dio. Verso le 10 si svolse nella basilica il corteo dei cardinali, dei vescovi, dei generali d'ordine. Arrivarono poi gli allievi del seminario Pio, i parroci di Roma, che avevano desiderato di assistere al completo a questa glorificazione di un curato della Francia, il clero ed il capitolo di San Pietro. Seguiva il vescovo officiante Monsignor Lucon e chiudeva il corteo il cardinal Rampolla, arciprete della Basilica Vaticana, avvolto nel suo lungo manto di porpora. Quando nella lettura del breve di beatificazione risuonarono queste ultime parole: «Noi permettiamo che si dia il titolo di beato al venerabile servo di Dio Giovanni Maria Battista Vianney», cadde la tenda che nascondeva la gloria del Bernini e si vide, innalzato tra le nuvole di bronzo che formano l'aureola della cattedra di San Pietro, il quadro dell'apoteosi raffigurante il curato d'Ars sostenuto da due angeli mentre prende il suo slancio verso il cielo. Tutte le campane della basilica mandarono alla città eterna il loro suono esultante. In un gesto spontaneo di venerazione i presenti caddero in ginocchio, mentre sugli occhi di molti spuntavano le lacrime della commozione. Monsignor Lucon intonò un Te Deum solenne che 30.000 voci continuarono poi con sacro entusiasmo. Terminato il Te Deum, il vescovo di Belley, che da questi istanti gloriosi si sentiva ricompensato dei molti affanni e delle molte pene, incensò solennemente le reliquie del nostro Beato, esposte per la prima volta sull'altare, e cantò la prima orazione indirizzata dalla Chiesa a questo nuovo e potente protettore. Seguì la messa pontificale all'altare della cattedra. Verso le 4 del pomeriggio il Santo Padre Pio X andò personalmente davanti a questo altare per venerare le reliquie del curato d'Ars. In quel giorno indimenticabile, Roma, la Roma papale, capo e cuore della Chiesa, madre delle anime, che ornata dalla porpora santa del sangue dei martiri, sorpassa tutte le bellezze di questo mondo, rendeva al beato Vianney amore per amore. Roma, egli che non poteva sentirla ricordare senza piangere di commozione, come avrebbe voluto conoscerla e visitarla, e con quale felicità si sarebbe prostrato ai piedi del Santo Padre. Un giorno un segretario del cardinal Pacca, che aveva fatto il pellegrinaggio di Ars, gli disse: «Fra alcuni giorni sarò dal Santo Padre». «Ah, se potessi venirci anch'io», rispose l'uomo di Dio versando lacrime di invidia. Ebbe sempre per Roma e le sue dottrine la sua ossequiente sottomissione. E quando in Francia si sollevò la questione liturgica, dimostrò di preferire la liturgia romana. Amava pregare in unione al Padre comune dei fedeli, recitando le medesime preghiere, e più volte espresse il desiderio di possedere un breviario romano. L'8 gennaio 1905 Roma dava veramente gli onori degli altari ad uno dei suoi figli migliori e più affezionati. Le solennità di Roma ebbero la loro eco anche nel piccolo villaggio di Ars, che nei giorni 2, 3 e 4 agosto celebrò un triduo solenne con la partecipazione di 3 cardinali, 15 vescovi e 22.000 fedeli accorsi da tutte le province della Francia. Erano 45 anni che in questo piccolo angolo della Dombe si lavorava per la glorificazione dell'amato pastore. Per quella data era anche finita la bella chiesa che Don Vianney aveva spesso contemplato in sogno. Poiché mancavano i fondi per coprire le spese più gravose, Don Tocanier si fece questuante e percorse tutte le grandi città della Francia. Da una lotteria nella quale i premi migliori erano l'inginocchiatoio e l'orologio di Don Vianney, si ricavarono 100.000 franchi. Pietro Bossan, fin dal 1862, aveva cominciato, dietro il coro della vecchia chiesa, la costruzione della cupola da sovrapporsi all'altare di Santa Filomena, che veniva consacrato il 4 agosto 1865 da Monsignor di Langalerie. Solo 30 anni più tardi, sotto la guida di Monsignor Convert, la bella chiesa veniva terminata. Un giorno Don Vianney si era sforzato invano di nascondere la sua gloria in quella della cara piccola santa. Oggi la Basilica di Ars è un inno nel quale si uniscono i nomi di Giovanni Maria Battista Vianney e di Filomena. L'ingegnere Bossan, nel suo primo piano, non aveva previsto il transetto della chiesa, che fu poi compiuto in onore del santo curato dall'architetto Saint-Marie Perrin. Là riposa attualmente il corpo del servo di Dio. La cassa, di rame cesellato, ingemmato di gigli e di rose, composti con squisita armonia, è dono del clero di Francia. La sormonta la statua di Santa Filomena e dai quattro lati porta le figure di San Giovanni Battista, San Francesco Regis, San Francesco d'Assisi e San Benedetto Labre. Attraverso il cristallo del reliquiario si possono vedere i resti mortali del curato d'Ars. Il 17 giugno 1904, quando si estrasse dalla tomba il corpo del venerabile Vianney, che doveva essere beatificato, tutti constatarono con sorpresa che le sue membra erano rimaste intatte. La pelle era un poco annerita e le carni disseccate, ma intere. Solo il volto, per quanto rimanesse ancora riconoscibile, aveva subito in parte i guasti della morte. Con gioia si scoprì che il cuore era rimasto integro e che si poteva conservare a parte come preziosa reliquia. La venerabile spoglia fu avvolta in combende e rivestita di ricchi ornamenti. Una tunica di moire bianca, una sottana di faille nera, un rocchetto di pizzo fino, una stola di drappo d'oro nella quale si intrecciavano gigli e rose pure in oro. Infine gli si pose fra le dita brune un rosario di diaspro. Al suo viso fu applicata una maschera di cera che ne riproduceva con fedeltà i lineamenti. E quando il 2 aprile 1905 si presentò ai vecchi di Ars, che avevano conosciuto molto bene Don Vianney, questa reliquia del suo corpo, come si presenta ancora oggi allo sguardo dei pellegrini, tutti esclamarono fra le lacrime: «È veramente lui!». Il reliquiario venne collocato su un altare di marmo sotto un baldacchino di pietre cesellate sostenuto da colonne di cipollino, incorniciato da 2 grandi affreschi dovuti al pennello di Paolo Borelli. Gli onori supremi, la canonizzazione. Alla gloriosa corona del curato d'Ars mancava ancora la gemma più bella. Veramente, elevato agli onori degli altari con la beatificazione, godeva già di culto pubblico, ma ancora ristretto, essendo limitato quasi dai confini della Francia. Un decreto del 12 aprile 1905 lo presentava come patrono di tutti i sacerdoti della Francia e colonie posti in cura d'anime, ma era giusto che questo prete incomparabile fosse dichiarato altresì protettore e modello di tutti i preti del mondo, e tale privilegio straordinario non poteva venirgli che dal decreto di canonizzazione. Trascorse le grandi feste di Roma e di Ars, si continuarono al Vescovato di Belley i lavori di questa causa, che non fu interrotta neppure dalla Grande Guerra, e nel 1916, sotto l'Episcopato di Monsignor Manier e il Pontificato di Benedetto XV, furono esaminati i due miracoli necessari per la canonizzazione: la guarigione di Suor Eugenia e quella di Matilde Rougeol. Suor Eugenia, religiosa di San Carlo, fin dal principio del 1905 si era ammalata di ulcera varicosa, che divenne presto sanguinante e produsse una piaga lunga 6 cm e larga 5, costringendo la povera suora ad assoluta immobilità. Nell'agosto del 1905 alcuni parrocchiani di Ronno, Rouen, dove Suor Eugenia si trovava per obbedienza, pensarono di fare il pellegrinaggio ad Ars. La povera inferma supplicò di essere portata anche lei al villaggio del santo. Con la giunta la si lasciò per un'ora intera su di una sedia sopra la tomba ove aveva riposato Don Vianney. «Padre mio», pregava ella nel suo semplice linguaggio, «ero incaricata della cucina nella mia comunità e bisogna bene che provveda per domani». Ad un tratto si sente guarita, si alza e cammina da sola fino all'albergo scelto dai pellegrini di Ronno. Il giorno dopo riprendeva la sua mansione in cucina. Matilde Rougeol era nata il 23 settembre 1878 a Villers-Lafayette, nella Costa d'Oro. A 28 anni, in seguito a un attacco di influenza, fu colpita dalla laringite tubercolare con la perdita completa della voce. Sapendo che il suo male era inguaribile, aveva cessato anche di consultare i medici. Nel luglio 1910 aveva preso parte ad un pellegrinaggio a Lourdes, presieduto da Monsignor Dadol, vescovo di Digione, ma senza ottenere la guarigione. Nel ritorno da questo pellegrinaggio era previsto il passaggio da Ars, ed ella ne approfittò mettendo tutta la sua fiducia nell'intercessione del beato Vianney. Nella chiesa tenne il suo discorso Monsignor Dadol, supplicando il beato di fare dei miracoli per la sua canonizzazione. Venuto il momento della partenza, i pellegrini si riunirono per l'ultima volta davanti all'altare per baciare la reliquia del cuore. In quegli istanti Matilde, nell'interno del suo cuore, aveva detto: «Se volete, potete guarirmi». Ritornata al suo posto, tentò di cantare, e fra la generale meraviglia la sua voce, perduta da 4 anni, si fece udire come già un giorno, lanciando alla volta della basilica il canto così popolare: «C'est notre saint, notre honneur, notre gloire, le curé d'Ars, con acclem en ce lieu». La guarigione era stata istantanea e completa. Con voce chiara, di un buon timbro, poté fare 2 deposizioni successive, il 4 ottobre 1916 e il 16 settembre 1920, davanti il tribunale incaricato della causa d'Ars. Il 1 novembre 1924 ebbe luogo in Vaticano, alla presenza del pontefice Pio XI, la lettura solenne del decreto di approvazione dei 2 nuovi miracoli attribuiti al curato d'Ars, e la domenica 27 dicembre fu letto davanti al Papa il decreto De Tutto, che autorizzava la canonizzazione del beato Vianney. Il 31 maggio 1925, solennità di Pentecoste, l'umile prete, che con le sue virtù e coi suoi miracoli aveva dato lustro incomparabile alla Francia agli occhi delle altre nazioni, riceveva gli onori supremi di una festa così celestiale che terrena. 15 giorni prima, il 17 maggio, per la canonizzazione di Santa Teresa del Bambino Gesù, Roma aveva festeggiato l'apoteosi della piccola regina con preparativi sontuosi inauditi. Nella Basilica di San Pietro questi preparativi servirono anche per la festa del beato Vianney, per cui l'angelica Vergine di Lisieux prestò, per così dire, questi splendori al povero curato d'Ars. Ambedue, gloria di un medesimo secolo e di una medesima patria, circondati da un uguale trionfo. Da tutte le colonne di marmo pendevano immensi drappi di damasco rosso con frange d'oro. Ai piedi delle statue erano deposte ghirlande di lauro. La cupola, grandiosa, risplendeva di luce, di gioia e di gloria.